Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre, alcune informazioni di servizio. La nostra mail, innanzitutto, unabusoalgiorno@radio24.it. Poi il mio blog, Guardi o Ladri, ma ne approfitto proprio per dire che lo trovate dove? Sul sito di Radio 24, quindi radio24.it. sotto il mio profilo, o lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore nello spazio blog. Allora, la mail, dicevo, ebbene, questa mail viene sempre più spesso raggiunta anche da associazioni, circoli, sedi di partito, insomma persone, diciamo così, che si raccolgono intorno ad un comune sentire. Questa volta è stata mandata da Elio Gentili. Voi direte chi è? Ve lo dico subito, è il presidente del circolo culturale Nicola Nostra. E Nicola non è un soggetto fisico, non è un uomo, ma parliamo del centro storico di Nicola di Ortonovo, si chiama così questo paese, in provincia della Spezia. Allora, questo comune ha circa 8.000 abitanti, persona più, persona meno, gattino in più, gattino in meno, cagnolino in più, cagnolino in meno. Però c'è questo borgo, questo centro del paese, che ha un centinaio di abitanti, 140-150, che da alcuni giorni, da alcune settimane, da un po' di tempo, lo sentiremo dalla viva voce di Elio Gentili, si trova a vivere una condizione un po' difficile, perché questo borgo è arroccato su una collina e succede, adesso lo sentiamo cosa succede. Buongiorno Gentili. Buongiorno dottor Galullo. E do il buongiorno a Massimo Marcesini, che è il vice sindaco di Nicola di Ortonovo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Gentili, che cosa succede in questo vostro borgo arroccato sulla collina, con queste case che formano, lei le descrive poeticamente, una cortina muraria con stradine strette che impediscono il transito di automezzi? Prego. Esatto. È un centro medievale, con queste stradine strette praticamente è impossibile ai mezzi accedervi, e è tutto pedonalizzato. C'era soltanto una piccola piazzetta che conteneva 18 automobili, che veniva utilizzata dalla popolazione per lasciare appunto gli automezzi. Il sindaco e l'amministrazione comunale ad un certo punto nel 2006 costruì un grande parcheggio sul lato est per 60 posti macchina, che servivano alla metà della popolazione del paese, diciamo quelli che abitavano dalla parte est. Quindi sarete stati contenti, insomma. La ovest, la piazzetta che è all'ingresso del paese. Naturalmente quella metà di popolazione che serviva di quel parcheggio doveva fare 200-300 metri per poter accedere all'automezzo e portare e trasportare la spesa. Deve sapere che in paese non esiste nessun negozio e a volte occorre fare anche 2 o 3 discese giù al piano per rifornirsi. E nel periodo estivo, insomma, non è bellissimo, diciamo. Nel periodo estivo poi aumentano i problemi, perché ci sono 2 ristoranti abbastanza rinomati, la gente sale in paese, alla sera specialmente, quando non ci sono i vigili, naturalmente, che chiudono il loro servizio alle 14, e parcheggiano tranquillamente. Però se uno del paese lascia l'auto distrattamente la sera, la mattina si dimentica di toglierla, trova la multa di 106 euro. Purtroppo non vengono cancellati. Ma insomma, voi non ci avete voglia di farsi 300 metri, via Gentili? Ma 300 metri per 2 viaggi, magari portando la spesa al supermercato, sono 1200 metri. E siccome il paese è composto la maggior parte di persone anziane, non credo che la gente abbia voglia di farsi 1 chilometro tutti i giorni per portarsi a casa un po' di spesa. Certo, ma in quei posti, in quei 18 posti che avevate prima, che cosa ne è successo? Cosa ci hanno messo? Hanno messo un'area pedonale e praticamente la chiamano la piazza vuota, perché è completamente vuota tutto il giorno. E a parte poi la sera, i giorni festivi, quando sanno che i vigili non salgono in paese e quindi è occupata da... Ho capito. Allora, questa storia è molto carina, molto interessante, perché è vero che riguarda questo comune, ma ne riguarda in realtà moltissimi altri. Ad esempio, lo scorso anno io mi sono recato in provincia di Siena e ho visitato alcuni di questi comuni straordinari nella provincia di Siena, che è già di per sé un incanto della natura. Sono molti i paesini che poi hanno questi borghi dove è impossibile accedere, sono inaccessibili, ed un tempo, parlando appunto con gli abitanti, si viene a scoprire che c'era la possibilità di parcheggiare, ma ora non c'è più, e quindi ci sono questi parcheggi che sono distanti, come dice giustamente lei. Però di sera, magari perché ci sono i ristoranti, e questo accadeva anche nei paesi che ho visitato in provincia di Siena, in realtà ci vanno tutti, quindi penalizzati poi sono i residenti. Allora, il caso è interessante anche perché lì vivono delle persone anziane, quindi voglio dire, è facile fare della facile ironia, come l'ho fatta io, ma volontariamente l'ho fatta, ma insomma, in periodi estivi come questi, comunque quando c'è anche il freddo, non è poi così piacevole trasportare pesi fino a casa magari più volte al giorno. Vice sindaco Marcesini, lei ha sentito il suo concittadino, le sue critiche, lo conosce, come risponde alle critiche del suo concittadino? Ma è una cosa dibattuta più volte discussa. Innanzitutto mi preme sottolineare che non è che il Borgo di Nicola non abbia parcheggi pubblici per le autovetture. Le faccio un calcolo veloce e rapido. Abbiamo più di 80 posti per autovetture, che su una popolazione residente di 140 abitanti credo sia una cifra, un'incidenza molto certo, elevata. Ma questo l'ha riconosciuto e anche questo, Gentili. Questo significa che il problema del parcheggio è un problema relativo non al discorso di Nicola in sé del Borgo, ma specificatamente a quella che è la difficoltà nei borghi storici in generale. Esatto, no, ma infatti Gentili questo l'ha anche riconosciuto, il problema era proprio, diciamo, di questa area specifica del centro storico. Secondo me la visita e chi viene a Nicola la vede risolve immediatamente il problema. Difficile è parlarne così, perché una visita potrebbe risolvere immediatamente il problema, perché le dico questo: noi abbiamo in quella piazzetta, che è una piazzetta bellissima, con panorama mozzafiato, con non lo metto in dubbio, è così bella poi la vostra provincia, è veramente bella, anche perché il Borgo di Nicola, lei ora probabilmente non ce la mette, ma si inserisce al confine tra Liguria e Toscana, quindi di fronte noi abbiamo l'immensità, abbiamo la Valle della Luna, abbiamo l'infinito del mare, possiamo vedere le isole della Corsica e Capraia. Questa piazza adibita a luogo pubblico, quindi pedonalizzata, è una vera chicca. Questa non è assolutamente vuota. Ma devo smentire quello che dice l'amico Gentili, perché proprio nei giorni scorsi ci sono state delle manifestazioni fatte anche dalle associazioni culturali del luogo, che riempiono, rendono viva e vitale quella piazza. Insomma, e lei dice, sono tanti istanti, che mi permetto di sottolineare poi l'aspetto fondamentale, diciamo, questa piazzetta pedonalizzata, lastricata, con un finanziamento regionale che è costato zero al comune, quindi anche un progetto valorizzante dell'area, ci ha permesso di renderla effettivamente un qualcosa di unico. Bisognerebbe invitare, e io faccio apertamente da questa posizione, anche chi ci ascolta a vedere il luogo e assolutamente, anzi facciamo un bello spot per il suo comune. Assolutamente, visitate Nicola di Ortonovo. L'Italia è così bella che veramente merita e vale la pena di visitarla tutto. Poi mi trovate al confine fra la Liguria e la Toscana, ragazzi, è veramente uno spettacolo. Io non ci sono mai stato, però spero di venirci presto, quindi facciamo lo spot per questo nostro bel paese. Allora, però mi pare di capire, caro Marcesini, che lei sta dicendo, insomma, Gentili ci urla un po' nel manico, se la prende per poche decine di persone a questo punto anzianotte che non sanno dove parcheggiare la loro macchina. Insomma, lei sta dicendo, stiamo facendo tutto sto gran casino, scusate la volgarità, sto gran cancan, però in realtà per poche decine di persone. È così, Marcesini? Che quindi si tratta di 20 metri in più rispetto a quello che era nel passato. Non ciò che ci dice Gentili. Al lato della strada, della piazza e in tutta la strada che circonda ci sono parcheggi pubblici, accessibili. La piazza è una piazza di una cinquantina di metri, quindi non è che ci sia stato questo cambiamento di epocale, diciamo così, insomma. Bene. Poi ovviamente ci sono i disagi del centro storico, Allora Gentili, io do a lei la parola. Mi pare di capire che Marcesini dice: la piazza quando deve essere viva lo è. Insomma, non vi lamentate, i posti auto li avete, tutto sommato, così preserviamo anche la bellezza del posto, insomma, non avete nulla di cui lamentarvi. Io non prendo posizione rispetto a quello che dice Marcesini, io la prendo sempre posizione, non ho certamente difficoltà e il coraggio delle mie scelte, però qui mi pare un po' difficile prendere posizione, perché Marcesini dice preservo il centro storico, lei invece dice ai vecchietti chi ci pensa. Gentili, come la vede? Posso dirle una cosa? Io ho scritto anche la storia del paese. Quella piazza è al di fuori del centro storico, è stata costruita nel 1867 come luogo di deposito di carri e carriaggi e carrozze, è stata utilizzata da sempre come parcheggio. Quella piazza, ultimamente c'è stata una signora incinta, ha lasciato la macchina sulla piazza e ha trovato 106 euro di multa, mentre poco prima c'erano altre macchine, dei SUV. Certo. Io sono stato a visitare paesi storici come Fosdinovo, come Suvero, dove sono castelli medievali molto più importanti di Nicola, e sono le macchine parcheggiate ai piedi del castello, perché nei centri storici la gente... Questo non è detto che sia un bene, bisogna di volta in volta vedere poi qual è la migliore soluzione. Allora, una cosa l'abbiamo capita, che a tutti sta a cuore la vita di Nicola di Ortonovo, che è questo comune splendido in provincia della Spezia, soprattutto nel suo borgo antico. Io invito quindi i nostri ospiti, che ringrazio, a cercare di trovare una soluzione amichevole e amicale per il problema delle persone anziane. Ritorneremo magari, perché no, la prossima estate in questo comune a vedere che cosa è successo nel frattempo. Grazie in regia Filippo Aureggi e in studio ad Antonella Migliaccio. Roberto Galullo vi augura una buona giornata.